Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, 21 e 2 minuti primi in questo istante. Una buona serata a tutti da parte di Flavio Bilato. Questa è Blu Radio Sera, la programmazione serale di Blu Radio Veneto. Anche in questa serata di martedì 29 marzo 2011, assieme a Maurizio Calzavara, che saluto, buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. Avremo degli ospiti che arrivano direttamente da Rovigo e ci vengono a proporre la loro musica, e quindi salutiamo The Meaning Town, eccoli qua. Buonasera ragazzi e ben arrivati. Buonasera. Buonasera. Quindi salutiamo Matt, chitarra, voce e armonica dei Meaning Town, poi ancora Alberto alla batteria e alle percussioni, e poi ancora Roberto al basso. Buonasera. Ecco, quindi come avrete capito, la versione live di Blu Radio Sera anche in questa serata, ascolteremo alcuni pezzi tratti dall'ultimo lavoro dei Meaning Town, poi ancora faremo un salto nel passato, sempre targato Meaning Town, per ascoltare un pezzo di un loro CD di qualche tempo fa, e poi, graditissima sorpresa, ne parleremo più tardi, un nuovo disco che ci è capitato qui sopra la nostra scrivania della redazione, con Matt and the Meaning Town, con Amnesia, ma non diciamo di più perché è un'anteprima, lo scopriremo più tardi. Intanto ragazzi, di nuovo benvenuti, vorremmo sapere, Meaning Town, Cosa significa? Da dove l'avete preso questo nome così, così importante? Sì, pronuncia esatta, ti correggo. Sì? Poi mi vorrai male per tutta la sera. Sì, certo. Mining Town. Ecco, Mining Town, quindi me la prendo con la redazione. Comunque sei giustificato perché quasi tutti la sbagliano. Ecco, benissimo. Quindi, comunque il nome nasce da una mia passione per Ryan Adams e per la band, la prima band che fu di Ryan Adams, che fu i Whiskey Town, sì. Quindi è un po' un'omonimia, ed è anche una canzone dei Whiskey Town, Meaning Town, mi piaceva come suonava e il nome è stato preso per quel motivo lì, insomma, inizialmente. Poi è dal 2004 che, tra virgolette, tra varie vicissitudini la band è nata e sta continuando a suonare, e il nome non è mai cambiato, insomma. Quindi Meaning Town, adesso me lo correggo, giustamente me la prenderò con la redazione per l'informazione giusto, che mi hanno passato. È giusto, è sia così, è giusto. In ogni caso, lui ha citato Whiskey Town, Flavio. Sì. Whiskey Town avevano fatto un primo disco di esordio strepitoso, avevano letteralmente influenzato molta gente, che Ray Adams è un musicista straordinario. Poi ha fatto da solista, ha chiuso la parabola, o ha fatto altri gruppi, ma ha chiuso la parabola Whiskey Town e ha portato avanti un discorso diverso. Dobbiamo sottolineare una cosa, Flavio. Questi signori, e sono molto orgoglioso di questo, hanno fatto una cover band di Ray Adams, che non confondere con Brian Adams, che è difficilissimo. È difficilissimo trovare. Lo sappiamo che è difficile. È difficilissimo. nessuno l'ha mai proposta, perlomeno dalle conoscenze che abbiamo noi, gente che fa Ryan Adams, insomma. Infatti, si trova con lanternino. Cercare i musicisti e soprattutto tramite annunci, perché nella nostra zona funziona così, e mettere annunci specificando cover band di Ryan Adams. Qualcuno diceva, sbagliava con B davanti. O sbagliavano la pubblicazione, oppure chiamavano dicendo: presente, uno di quelli. Beh, va bene. È come, allora, tu ti sei presentato, stiamo parlando con Alberto, il batterista, ti sei presentato perché dicevi, vabbè, Brian Adams mi piace, suona bene, suona duro. Esatto, esatto. E invece? In realtà, quando mi ha contattato, ho detto, sì, ce li ho praticamente quasi tutti i CD. Infatti lui c'è rimasto, ho detto, oh, è strano, vai, comunque ti mando i brani, dopo ho visto i brani, ma... Ma cosa sono questi? Non è mica Brian Adams. Capito dopo, lui però mi piace. Lui veniva il sospetto che tu avessi in casa. Esatto. Solo il The Best Of. Esatto. Sì. Lui pensava che tu avessi tutti i CD di importazione di Ray Adams. Esatto, cioè quello, esatto, discorso. Esatto. Bene, invece con Roberto come è stato? Sì. Roberto il bassista? Niente, Roberto era rimasto in quel periodo senza un gruppo con cui suonare e ha risposto a uno degli annunci di Matteo. E devo dire che lo sono ancora molto ignorante in questo tipo di musica, provengo da altre esperienze, e quindi per me è stato un pochino un ricominciare da capo una cosa che non conoscevo musicalmente. Adesso lo sto conoscendo ormai quasi da un anno, insomma. Ma se sei addentrato nel discorso della musica di Matt e degli altri componenti della band, sei molto addentrato, hai fatto la tua ottima figura, secondo me. Ma spero di sì. Poi hai un bellissimo basso, dobbiamo sottolinearlo, una cosa meravigliosa. Beh, questo non l'ho fatto io. Lo so, però è bello anche da vedere. Poi saperlo suonare, quello è un altro paio di maniche. Quindi ti sei addentrato nel meccanismo di Matt e lentamente ma progressivamente le cose sono andate bene. Nel meccanismo di Matteo e più che altro per le canzoni loro proprie, quelle già che avevano e quelle che dopo sono nate assieme. Ho partecipato anch'io, insomma, certo. Per la loro creazione. Quindi questo sicuramente mi rende molto più partecipe, diciamo, del lavoro nei Mind in Town, senza disdegnare ovviamente le cover, ecco, che è un musicista Ryan Adam che non conoscevo e ho conosciuto grazie a Matteo e certo. Alberto. Dobbiamo sottolineare fra una cosa, sì. Rovigo con le stellette praticamente, Rovigo made in USA praticamente, America Indie, però dobbiamo sottolineare. Questo è un complimento. È un grosso complimento. Allora, Maurizio, come sempre, prima di continuare con i Mining Towns, in questo caso era doveroso sottolineare Mining Towns, andiamo ad ascoltare subito un pezzo del loro nuovo disco per poi tornare a commentare insieme la cosa e soprattutto per far conoscere ai nostri ascoltatori che abbiamo in studio con noi. Sei d'accordo, Maurizio? Certamente. Iniziamo con una traccia tratta da Out of Love, che si intitola Gun. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Come and when you're gone. Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed ecco qua, gruppo identificato. Allora, The Meaning Town sono venuti a trovarci da Rovigo, ce l'abbiamo qui in studio in carne ed ossa e anche con tanto di strumenti, quindi salutiamo ancora Matt, Alberto e Roberto, ancora benvenuti. Grazie. Nei nostri studi e niente, poi più tardi suonerete anche qualcosa per noi, visto che insomma, chitarre vibranti, basso che va che è un piacere e la batteria che sentirete. Vabbè, ha solo spazzole, per cui vabbè, meno invadente, però diciamo anche l'effetto acustico che già comunque si era sentito in questo primo pezzo, diciamo che si farà ancora più fragrante nel corso della trasmissione. Allora, da Out of Love abbiamo ascoltato questa Gun. Questo country rivissuto e corretto da te, con la voce femminile, quella della tua ragazza, dobbiamo citarla giustamente in questi corretti. Elisa, sì, Elisa Clemente. Come mai un pezzo abbastanza country, tra virgolette, se mi è consentita. Sì, molto la John Denver. Molto la John Denver. Beh, una bella cosa, John Denver. Non avevo il coraggio di dirlo, però è vero. Hai ragione. Sì, sì. Molto denveriana, in questo senso. Comunque, sì, sì, sì. Penso che sia dell'album, penso sia il più country di tutti. Come mai l'inizio così? E poi l'album è un po' diverso, secondo me. Abbiamo puntato molto su quella canzone lì perché ci sembrava suonasse bene, e anche dalle prime prove che abbiamo fatto assieme, quando l'abbiamo composta, l'abbiamo arrangiata, e quindi la decisione di prenderla e metterla nel disco come title track, come prima canzone, soprattutto per quel motivo lì, insomma, ci piaceva molto come suonava, insomma. Per smuovere un momento il discorso. Sì, è allegra, una canzone allegra, una canzone che è abbastanza orecchiabile, quindi partire con una canzone così, penso che chi ascolta il disco abbia già un buon impatto, insomma. Facilita, cosa dici, Flavio? Beh, assolutamente. L'intenzione assolutamente è quando si decide la scaletta di un disco è sempre quella, magari di mettere i brani più intuitivi all'inizio e fare un po' di curiosità non fa mai male, perché poi il disco va avanti da solo e la gente poi si accorge che ci sono nuove sonorità e che poi invece di arrivare direttamente incuriosiscono, per cui la seconda volta si ascolta il disco, poi la terza e così via, così come abbiamo fatto noi. Solo una curiosità legata alla copertina, Matt, questa macchina da scrivere in versione un po', come dire, non moderna assolutamente, quella ancora con i tasti che quando gli schiacci fanno rumore. Questa scelta di copertina? Beh, oddio, sta a indicare una mia passione che è lo scrivere le canzoni, e comunque usare una passione abbastanza per il vintage, abbastanza importante, insomma. Certo, quindi vado a ricercare uno dei pochissimi che non usa ancora tastiera e computer, ma usa no uso anche tastiera e computer però lavorando in ambito tra virgolette specifico su ho avuto l'opportunità di lavorare in un'azienda dove trattava ancora le vecchie macchine da scrivere. Esatto, Remington, la macchina da scrivere lì mi è stata regalata da il vecchio titolare, aveva una collezione. In questo caso di quale marca stiamo parlando? E questa è una, adesso mi cogli in preparato. Non importa, era solo una curiosità. Però abbastanza, sì, comunque degli anni 70. Certo, visto che da giovane ho fatto dattilografia. Queste e poi visto. Dobbiamo citare, sempre per la copertina e anche per le altre foto dell'album. Tu dicevi, ha un aspetto comunque... dà l'aspetto vintage anche al tutto, e anche un merito della fotografa che ci ha seguito nell'ambito di costruzione della copertina e del pre-disco, e anche dopo ci ha seguito ai nostri live e ci ha fatto dei vari servizi fotografici, che è Cristina Visentin di Rovigo, e tutte le foto che vedi nell'album sono di sua invenzione, insomma. Ah, benissimo. Quindi no, stavo guardando anche dentro, che poi ecco il vostro chiamarvi all'americana. Sì, abbiamo i nickname. Avete i nickname, ad esempio. Allora, siamo vintage nella copertina, ma poi dentro siamo siamo moderni. Ad esempio, tu sei nome originale tuo, Matteo. Matteo, sì, ecco, sì. Quindi Matt Waldon. Matteo Baldon. Baldon, ecco. Quindi è tutto a me. C'era qualcosa. Poi ancora c'è Albert Wallace. Alberto Vallese. Eccolo qua. Poi qua invece diamo anche il benvenuto, visto che siamo di Padova, Robert Padovan. Non so. Sì. Chiamiamolo così. Mi chiamo così, ecco. Vado avanti. A parte, manca solo la O. Manca solo la O, perfetto. Bene, allora, visto che siete qua con gli strumenti, direi che è il momento di far ascoltare qualcosa di vostro in diretta dai nostri studi. Uh-huh, cosa bene. Ne dite? Sì, va bene. Prima vi voglio anticipare anche che gli ascoltatori non possono solamente ascoltarvi, ma possono anche vedervi, perché c'è un collegamento col nostro sito diretta rockwave.tk, dove sono collegate le varie webcam che voi Minintown vedete sparse nei nostri studi. Quindi sentitevi guardati, sentitevi seguiti. E allora, che canzone ci fate ascoltare? Allora, iniziamo con Breathe, che è sempre dall'ultimo album. Niente, iniziamo. Prego, per voi. Find a rainbow in your eyes, while it rose. Solid hands still together to feel an air inside of me. And fly in a sky that one day will wheel. I look in your eyes, dream and fade. I try to tell you, trust me, trust me. On the later road, just to never. Just you breathe, just you leave. Oh, when I see you, my broken heaven. Just you breathe, just you leave. Have a long winter, think of you. Feel the pain you sent to. Blackout of love, you inside me. This empty room without you breathe. Without you breathe on the later road. Just to never, just to breathe, just to leave. Oh, and see you, my unbroken heaven. Just to breathe, just to leave. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Maurizio, sentire questa che bella che invasione piacevole di musica nei nostri studi. Un brano live ascoltato con grande piacere, ancora grazie. Men in Town, siete qua fino grazie alle 22.30, vorremmo farvi suonare per, per tutta la trasmissione senza più chiedervi niente, perché la musica dice tutto. No, io ti fermo intanto per ringraziarvi per la disponibilità che ci avete dato e per la possibilità che ci avete dato di venire qua per far conoscere ancora meglio la, la nostra musica, insomma. Quando... che non è facile in Italia, non è facile per soprattutto un determinato tipo di musica. Io personalmente, che seguo un determinato tipo di musica, apprezzo molto quello che fate voi come radio, sia per i gruppi emergenti che per la trasmissione, per le classifiche. Cioè essere, come dicevo prima Maurizio, essere in classifica con gente come, vabbè, Ryan Adams oppure The Sembrist, Cowboy Junkie, so The Sembrist, sì. Gente qua, cioè, mette un po' l'imbarazzo. Ricordiamo a cosa fa riferimento Matt, alla classifica di Rock Wave curata da Alberto Prisco, che è anche il nostro direttore artistico per quanto riguarda i live, che ogni tanto si palesa. È un ringraziamento anche a Alberto, perché sì, è grazie a lui che, diciamo, sono venuto in contatto con voi. Certo, che Alberto ha voluto fortissimamente il suono di questa band di Rovigo, che fa parte del DNA mio e di Alberto, anche tuo Flavio. E quando abbiamo ascoltato il disco non abbiamo saputo dire di no. Certamente, subito li abbiamo chiamati immediatamente. Anzi, abbiamo cercato di anticipare anzi le date in questo caso. Sì. Beh, questa è una ballata che porta determinati riscontri da parte tua, mentre il batterista è un po' panchettaro e lui è un po' legato al blues. Mi hanno scoperto subito, gli ha detto qualcuno. Sì. Ho cercato di panare le cose. Sì. È un'idea tua, si è sviluppata con l'apporto anche degli altri due, chiaramente. Sì, le canzoni nascono voce e chitarra quando le scrivo e hanno già una melodia, hanno un testo. Poi naturalmente l'arrangiamento con la band è una cosa a parte, nel senso poi io porto questa melodia, questo testo, questo insieme a loro e ognuno di loro mette la sua mano. Certo, certamente. Poi in questo album ancora di più ho cercato di contentare un po' tutte le squadre. Vedi, sempre tornando al discorso prima, panchettaro, blues, cercato di fare una variante sui brani che possa accontentare e comunque far esprimere a ognuno della band quello che, insomma, sente meglio. Perché indichi sempre a me? perché sei più vicino. C'è la sua sinistra. Per quello. Vabbè, Roberto è un po' più lontano per essere indicato. Comunque. Vabbè. In ogni caso, parlando di questo album, questo è proprio l'album del gruppo, mentre l'EP era l'EP di inizio, quindi determinate cose. Anche se nell'EP avete conservato un pezzo favoloso che poi citeremo, che secondo me è il pezzo trainante musicalmente adesso, secondo me, del modo di suonare vostro. L'EP, sì, l'EP è nato in un momento che particolare del gruppo, dove le cose stavano andando un po' maluccio, stiamo parlando del fine 2009, e diciamo che eravamo praticamente quasi sciolti, tranne, adesso ti continuo a citare, tranne il batterista periodo di mezzo. Ed è nato velocissimo, cioè in maniera molto veloce. Abbiamo ritrovato un bassista, siamo ripartiti alla grande nel giro di pochi mesi, abbiamo riniziato l'attività live e abbiamo voluto fare questa cosa dell'EP per avere un qualcosa in mano per proporci ai vari locali. Ed è stato un prodotto che è stato registrato, a differenza dell'ultimo album che ha avuto un lavoro sotto e comunque si sente alla fine molto più elaborato e molto più anche eseguito nel complesso con molta più calma. L'EP è stato registrato in una sessione tra registrazioni e mixaggio di 12 ore. Velocissimo. Quindi è stata quasi una live recording. Della serie buona la prima. Esatto, più o meno sì. Sì. Io personalmente ci sono abbastanza affezionato per come è nato, per come era la situazione in quel momento e per come poi quello che ne è uscito con quelle che erano le nostre possibilità, cioè sia a livello di registrazione e quindi di possibilità anche economiche, perché sappiamo che registrare un album non è sicuramente facile se non si ha un ritorno economico che te lo permetta. E soprattutto un'andata più che un ritorno, no? Perché bisogna investire anche un po' di sì, denaro. Sì, alla fine sì. È stata una bella rampa di lancio però, dai. Comunque sì, ci ha dato soddisfazioni anche perché poi con quelle pili siamo andati, abbiamo suonato abbastanza l'anno scorso live e ci siamo fatti conoscere in giro anche per l'Italia con Neil Casal. Quando ecco, citiamo un momento la tua amicizia con Neil Casal. Flavio lo sa, ma i nostri ascoltatori non molti lo sanno, che Neil Casal è un cantautore atipico, cantautore indie, non conosciutissimo in Italia, ma molto interessante come musica, come approccio sonoro. Sì, è un cantautore americano, un folk singer. Esattamente. Che poi, diciamo, ha avuto modo di suonare con i Cardinals a fianco di Ryan Adams come chitarrista solista. Che questo forse lo sminuisce il lavoro che ha fatto lui, perché ha fatto più di 10 album. Sì, vero, ne ho 5 solo io. Hai mandato a Ryan Adams un disco dei tuoi? No, Neil Casal ce l'ha, ma Ryan Adams, Ryan Adams è un personaggio un po' particolare, un po' tanto particolare. Un po' difficile. Non è così avvicinabile. Ma che magari se lo trova a casa, non ancora avvicinarlo. Magari l'ha dato Neil, non lo so. Appunto il postino in questo caso aiuta molto. comunque non ho nessun indirizzo. Vabbè, allora continuiamo piacevolmente a parlare con i Men in Town. Sono venuti a trovarci questa sera all'interno di Blu Radio Sera in versione speciale live. E allora ascoltiamo un altro pezzo dal vostro lavoro, Out of Love. Facciamo allora, contento il batterista. Sì, per evitare gaff, vuoi dire tu il titolo? Ma questo lo puoi dire come vuoi, perché è sexy e poi è n.o.i.l. Va bene, allora intanto ascoltiamo, poi ci dirai il significato proprio di questa sigla, se radiofonica, come citabilità. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, abbiamo ascoltato un pezzo molto diverso da quella che era la ballata iniziale che avevamo definito denveriana. In questo Sexy Noel c'è di tutto e di più, e anche un omaggio fatto dal batterista, sì, in questo caso. Sì, ma mi sono un po' sfogato, diciamo. Sì, sì. Poi... Ho dato libero sfogo alla mia vena panchettara. E poi dovevi sapere che dovevi, sì, tornare indietro. Esatto. In questo caso. E volevamo citare anche la seconda voce di questo brano, che sì, è un altro cantautore sempre di Rovigo, Marco Ragni, che ha collaborato con noi su questa canzone. È un altro emergente, è un altro, ma forse anche, Di più di emergente, più di emergente, nel senso che è da anni che suona e canta, e ha veramente una splendida voce, e merita, se potete sentirlo. Ah, beh, è un invito, Flavio, approfondire sicuramente una... facci entrare in contatto, è un invito. Trovate, penso, dei collegamenti suoi su internet. Bene, benissimo, poi ci darai un po' di riferimenti in più per poterlo contattare, per poter parlare anche della sua musica nel prossimissimo futuro. Ma torniamo a Bomba, Men in Town, quindi con questa Out of Love. Mentre ricordo agli amici che Rock Wave è anche da vedere, diretta rockwave.tk, questo per entrare in contatto anche video con noi, e naturalmente all'interno del nostro sito internet c'è anche la possibilità di ascoltare col computer tramite lo streaming audio. E questo pezzo, abbiamo detto, fa parte del tuo DNA, sì, del nostro batterista. Qui l'abbiamo sentito, cioè nella dimensione che abbiamo qua, chiaramente è una dimensione ridotta, ma dal vivo, davanti al pubblico, quanto pesti musicalmente parlando? Il bassista penso che possa confermare. Vedi, Roberto, puoi confermare. Sì, lo confermo, soprattutto per quanto riguarda i piatti, i toni, questa cosa qua è micidiale. Bene. Io ne esco un po' scemo tutte le sere, magari di più di quello che è il mio naturale. Ecco. Libero sfogo, no, esatto, alle, sì, cose. A questo punto, a lui però. A lui, a questo punto, diciamo, chiederei con le orecchie del bassista, sì. Ma ti chiederei qual è il tuo modello, Alberto, visto che stiamo parlando di batteria. Allora, il modello di batteria, allora, a me piace moltissimo il batterista della Dave Matthews Band, Carter. Che è la macchina ritmica, non da poco, esatto, quella. Come modello batteristico mi piace tantissimo lui. Poi, va bene, okay, io ascolto molto anche rock, tipo AC/DC, Guns N' Roses, per dire. A me piace anche tanto il batterista dei Green Day, tornando al discorso un po' punk. Sì, sì, sì. Però, ecco, se devo dirti un batterista che prendo come ispirazione è quello di Matthews Band. Ah, guarda. Ok. No, non hai citato i vecchi storici, sì, batteristi? Beh, quelli, vabbè, potrei citarti Buddy Rich, oppure non so, ce ne sono a centinaia, o il batterista dei Led Zeppelin. Sì, ecco, sì, Bonham. Bonham, cioè ce ne sono tantissimi che hanno fatto la storia. Però, ti dico, li ho ascoltati tutti, però quello che mi ha colpito di più è Carter. Proprio il modo di suonare, il modo di portare un brano, il modo di esibirsi live. Esattamente, la caratteristica è Davis Matthews Band, e di avere un sacco di live incisi, suonati, un sacco di doppi, tripli, quattripli album, non so se esiste ancora, però doppio, triplo CD, è proprio un modo di fare. Davis Matthews Band spesso e volentieri esce con un disco live. Poi loro mi piace perché lavorano molto, sembra tipo delle jam. Sì, cioè, esatto, esattamente, come si usava una volta con i Grateful Dead, Flavio, ti ricordi? Sì, sì, ho un doppio CD con DVD incorporato di un vecchissimo concerto del 78 dei Grateful Dead. Dobbiamo sollevarci in piedi, Grateful Dead è un mito per noi di una certa generazione. Sì, arriva come non pochi, cioè, esatto, di un ascolto facile, ma nello stesso tempo ha una complessità sotto che... è da gustare. Non Garcia era uno che aveva tanti attributi musicali. Era un po' matto. Era un po' matto, sì. ma chi? Tutti i Grateful Dead non erano molto sani. Diciamo di sì. Diciamo di sì, ok. Allora, visto che avete gli strumenti, salutiamo Alberto Prisco. Ah, è arrivato il nostro direttore artistico. Ciao. Ecco qua. Alberto, ti facciamo i complimenti perché... No, ma soprattutto anche per la scelta, voglio dire, perché avere Mean in Town è anche merito tuo. E allora, mano agli strumenti, ci hai fatto ascoltare qualcos'altro? Sì, facciamo un altro brano, sempre dall'ultimo album, July. I don't know. Lots of way I'm falling. I was driving. Listen, come the morning, but it's true. Wanna take the leaving till it's good. Take your time. Have a new will say goodbye. We'll track to battle. The Mine in Town con un'altra canzone live, assolutamente atmosfere piacevolissime in questa serata, Maurizio. Sì, scavare nell'indie è una cosa meravigliosa da un gruppo italiano, ma decisamente bello, significativo, importante. Io amo particolarmente questo genere musicale, sono un po' di parte, chiaramente, anche Alberto che è dietro a te, però è molto molto me l'ha molto appena piacevole. Confermato, ho detto sono venuto perché questo genere musicale mi fa impazzire. Esatto. Salutiamo anche Chiara Goffo che è proprio in mezzo ai musicisti, sta scattando delle foto, le foto che poi faranno parte della nostra pagina su Facebook, quindi diventate anche voi amici su Facebook, quindi la pagina di Blu Radio Veneto Rock Wave. Voglio chiedere una cosa a Matt. Matt è appena tornato da Austin, quindi United States. Tu hai seguito un festival importantissimo. Citami i nomi. Io li ho sentiti prima, chiaramente. Se li citiamo live, che hai visto che... Ma sono tanti, è difficile citarli tutti. Quelli indie, soprattutto quelli significativi. Famosi, vabbè, Alejandro Escovedo, Lucinda Williams, A.S. Carl, Robert Elkin... John D. Graham, Kevin Welch, Willie Nile. Willie Nile che è venuto a suonare qua. Sì, certo. Sì, ha fatto il tour l'anno scorso. Esattamente, sì. Cosa si respirava? I concerti cominciavano alle 9 di mattina e finivano a mezzanotte. Sì, a parte essere un altro mondo che è un po' scontata come affermazione, ma l'aria che si respira è molto particolare, nel senso che cammini per la città, ti giri un attimo e ti accorgi di vedere camminare al ciglio della strada, non so, un musicista che hai ascoltato per anni, che è lì che sta facendo i cavoli suoi, o lo fermi, cioè c'è musica ovunque. Mi è rimasto impresso moltissimo l'arrivo all'aeroporto, queste gigantesche chitarre che ci sono all'aeroporto di Austin che ti accolgono quando vai a ritirare i bagagli. La prima affermazione che ho fatto è questo è il mio mondo, questa è la mia città. E comunque sì, l'atmosfera è particolare, vissuta in quella settimana lì sicuramente. Poi bisognerebbe viverla anche in un altro periodo dell'anno per vedere se è realmente così sempre là. Quella settimana lì è particolare per forza, perché suonano come dicevi tu, dalle 9 di mattina fino a tarda notte in tutti i locali della città. Danno la possibilità a molti musicisti anche dall'estero, dall'Europa, di suonare, e quindi l'atmosfera è per forza qualcosa di particolare. Bene, per far capire ai nostri ascoltatori qualcosa di più riguardo alla vostra musica, dopo questa trasmissione loro sicuramente saranno curiosi di andare in qualche sito e vedere ancora più informazioni, ascoltare ancora un po' di musica per poi decidersi di contattarvi e farsi mandare il disco. Sì, in che maniera? Noi abbiamo il sito ufficiale, che è www.miningtown.com. Diciamo che la soluzione più semplice per internet è andare su Google, scrivere The Mining Town, e sì, escono Facebook, escono il nostro sito ufficiale, esce MySpace, che ormai non curiamo più perché diciamo ci sono ormai troppi social network che la scelta è troppo vasta, quindi ci concentriamo sul sito nostro ufficiale. Facebook per gli aggiornamenti dei live, per le fotografie, sì, e queste cose qua, questi sono i due principali. Poi vabbè, Reverb Nation, però il sito ufficiale e Facebook sono le fonti più aggiornate della band, insomma, per live e per sì, chi volesse richiedere il disco. A proposito di live, ti ricordi qualche data che adesso avrai tra poco? Abbiamo suonato domenica. Ah, domenica. Abbiamo suonato domenica. Abbiamo 2 aprile. Abbiamo sì, 2 aprile, la prossima è sabato, a Occhiobello, al che sarà. Abbiamo suonato domenica a Popozze al Teatro Caruso. Bene. Diciamo che nella nostra zona riusciamo bene o male a piazzare qualche data ogni tanto, riusciamo rompendo le scatole ai locali, perché è così che funziona. Ma è così che si fa, no? La nostra intenzione sì, è di portarla anche un po' fuori dalla provincia, di uscire, cercare di sportare anche al di là di quella che è la provincia di Rovigo, di Padova. Quindi anche se c'è qualche gestore di locali qua di Padova, di Treviso, sì, di Venezia, esatto, che vuole ospitare The Mining Town, può contattarli direttamente dal loro sito, oppure anche contattarci e dire dove sono. Sul sito ci sono tutti i riferimenti, mail, cellulare. Benissimo, allora ascoltiamo ancora qualcosa dal nuovo lavoro di The Mining Town, andiamo ad ascoltare Sweet Girl e poi torniamo qui all'interno degli studi per commentarla insieme. Blu Radio Sera. Same in old times, we get so out of rock and roll band tonight. The same old thing that she's looking for me. Sleep my hand and down the Nile and I tumble on the street. Paradise, gentlemen, reach everybody, but anything adventures and read. You come around, my heart's hard for you, and your eyes cold ray, and I'm breaking my heart. Gentlemen reach everybody but anything adventures and read. Same old thing, she's looking for me. Sleep my hands are down the Nile in a tumble on street. Oh my sweet girl, hand tie. Oh my sweet girl. Oh my sweet girl, hand tie. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua ancora, buona serata a tutti da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara. Stiamo continuando a conoscere sempre meglio The Mining Town, questo gruppo che ci è venuto a trovare da Rovigo. Matt Waldon, Albert Wallace, Robert Padovan, eccoli qua. Sono qui in carne ed ossa ai nostri studi. Abbiamo ascoltato da Out of Love, il loro ultimo lavoro, un pezzo che si intitola Sweet Girl. A chi era dedicato, Matt? Ma questo è forse l'unico pezzo dell'album, sì, che non ha una storia ben precisa, e non è forse è il meno personale di tutte le canzoni. E è comunque una storia, tra virgolette, se vogliamo metterla lì, un po' fantasiosa e inventata, perché ogni tanto anche sui testi delle canzoni non va sempre bene raccontare qualcosa di vita vissuta, bisogna anche andare un po' a far viaggiare un po' la fantasia, e in questo caso forse dell'album è quella che è meno personale, insomma. È abbastanza veloce questo pezzo qua come andamento. Se avevamo detto all'inizio che il primo pezzo poteva essere un singolo potenziale molto demeriano, questo qua può essere un altro singolo potenziale, perché dà vigore, dà movimento. Sì. Sì, anche questo è su quell'andamento, insomma, è forse meno particolare come sonorità, come arrangiamento rispetto a Gone, è un po' più secco questo. A proposito di secco, l'intervento di Roberto in questo pezzo com'è andata? Ma l'intervento di Roberto in tutti i pezzi, sì. Non in particolare in questo. Direi bene. Bene, insomma, si è inserito subito bene, questo voglio intendere. Bene, sì. No, no, beh, lui lo può confermare. Adesso lo confermi, ti avvicini al microfono. Penso che, a differenza del batterista che ogni tanto... Sgarra. No, sgarra, ma a me piace rompere un po' le scale. Ah, ho capito. In fase di arrangiamento, io penso che lui, quello che ha fatto all'interno di questo album e anche quello che fa durante i live... l'ha sempre fatto con grandissima libertà ed è sempre venuto bene, non ci siamo mai lamentati, quindi una democrazia perfetta, benissimo. È raro trovarla nei gruppi, però se mi confermate che c'è, diciamo, la fiducia, mi fido di quello che fa. Ecco Roberto, il batterista spende un po' meno, diciamo che fa anche bene ogni tanto, dai. non fidarsi sì. Matt non deve fidarsi di te. No. Ogni esempio è puramente esatto, sì, casuale. Visto che siamo al giro di volta della, sì, trasmissione, che durerà fino alle 22:30, così da ascoltare ancora tanta musica, e prima vogliamo capire anche un attimino quelli che sono i gusti musicali, Maurizio. Certo, facciamo la solita domandina. Con la solita domandina, ipotizzando di dover andare in un'isola deserta, dovendo scegliere, facciamo tre dischi tra quelli che avete nella vostra discoteca, cosa vi portereste appresso? È difficilissimo, io non ce la faccio. Tre non bastano? No, tre non bastano. Tre compilation allora? Qualche... Esatto, ecco. MP3, quindi belle sostanziose. MP3 belle sostanziose, quindi dovremmo cambiare anche la domanda, Maurizio, più avanti. Tre momenti, sì. In questo momento cosa senti, cosa ascolti di più? Allora, sicuramente un album di... Allora, io sono entrato in questo mondo musicale... Il primo impatto è stato Tom Petty and the Heartbreakers. Hai detto una cosa semplice, da niente praticamente. È un disco che sono legatissimo ai Wildflower di Tom Petty. The Heartbreakers, bellissimo. Poi pensando ancora, riferimenti scontati, Dylan e Neil Young ne hanno fatti tantissimi di bellissimi album, insomma. Ryan Adams... abbiamo già citato. Sento in sottofondo. Sì, sì, c'è Tom Petty, Into the Great Wide Open. Ecco, sì. un altro grande disco di Tom Petty. Ryan Adams, sì, il periodo con i Whiskey Town, sicuramente, non so, Stranger Almanac, che è un disco che porterei Molto bello, sì. E della sua carriera solista sono molto legato a 29, che è un disco molto particolare, introspettivo, e forse anche cupo. Sì, decisamente. È un disco che... a cui sono molto molto legato. Qualcuno l'ha accusato di sovrapproduzione in alcuni momenti, cosa dici? Sì, sì. Poi citavi anche Grateful Dead, in quell'album lì c'è un brano che ricorda molto una canzone di Grateful Dead. Quindi, ecco. Sì, però forse un po'... Un po' esagerato per il personaggio. Insomma. Esattamente. Bene, poi sentiamo Roberto, il bassista. Siamo prima col bassista, sì. Vai Roberto, sì. Qualche momento anche te musicale che ti ricordi. Sì, devo premettere, cioè, come avevo già detto anche prima, io sono molto ignorante in questo filone musicale, intanto sto imparando molto da loro in questo senso, pur essendo molti anni che giro nell'ambiente della musica dilettantistica, insomma. La mia formazione proviene più dal blues, il blues elettrico, poi approfondito nei vecchioni, diciamo, del blues, ecco. Quindi tutto ciò che sento dai Mining Town, come li ho trovati all'inizio un anno fa e poi abbiamo proseguito, per me è tutto nuovo. Sto crescendo in questo filone, sto crescendo con loro, a volte in maniera meno indolore, alle volte con anche qualche frizione, ecco, diciamo così, però ci sta nel gioco, ci sta nel lavoro, vuol dire che c'è la passione di quello che si fa. E per quanto riguarda le cover, a volte la scelta mi lascia un po' perplesso in alcune canzoni, quelle forse che piacciono di più al batterista, perché sono un po' meno paghettaro, diciamo così. Ecco, però il più tendente al suono soft. Esempio quello di stasera, insomma, esatto. Diciamo, un piatto cura molto la pulizia del suono, quindi certe canzoni rock o punk forse lo disturbano, però, ecco. le suona egregiamente, comunque. Alla fine le suona egregiamente. Benissimo, il nostro batterista allora spara anche a te qualche momento. Beh, allora, come già detto prima, sono disco, molto... mi raccomando, non dimenticare... No, guarda, è un disco che devi portare. No, Vasco. Devi portare. No, piano, parliamo. Perché... L'ultimo? Quello uscito ieri. Sì. Probabilmente mi prende in giro perché sa benissimo che non mi piace moltissimo come genere. E io, a me piace tantissimo appunto i Green Day, addirittura i primi però Green Day, tipo, so, potrei citarti il disco dei Dookie. Ho capito. Prima del grande milionario successo, insomma. Esatto, diciamo che sono commercializzati moltissimo dopo, secondo me. Beh, insomma, cosa dici Flavio? Sei d'accordo? Oddio, forse sono d'accordo a metà, nel senso che hanno sempre mantenuto comunque una loro linea molto, molto importante, però certe canzoni, insomma, adesso sentiamo in sottofondo, sì, Waiting, sì. Però hanno saputo farsi conoscere e mantenendo la loro struttura base. Però sì, però comunque anche rispetto, secondo me proprio i primi album che facevano si sono molto tranquillizzati, diciamo. Erano panchettari i primi esatto, anni. Esatto, esattamente. Esatto. E poi, che so, altri cantautori, altre band sono i Ramones, oppure i Sex Pistols. È duretto, vai sul duro te, musicalmente parlando. E poi, e dopo naturalmente passo sempre alla Dave Matthews Band. La Dave Matthews Band, se sincero, mi ha fatto scoprire, Matteo. È un mondo a parte Dave Matthews Band. È un genere un po' particolare, sì, sempre americano, ma riesce a portare avanti determinati discorsi, anche cambiare, cambia spesso e volentieri. Sì, sì. Tanti live presumono anche questo, secondo me. Poi comunque ti dico, come generi musicali io sono molto aperto, insomma, a me piace suonare qualsiasi tipo di musica. Anche Brian Adams. Quindi... Il primo Brian Adams, non l'ultimo forse, quando ancora era sconosciuto, era canadese, ma un canadese un po' rocchettaro. Esatto. E dopo le cose sono cambiate, ha fatto tanti milioni di dollari e il discorso cambia per tutti. Oh no, bene, adesso quasi. Facciamo ancora milioni di note, Maurizio, esattamente, visto che ne approfittiamo della presenza live di Mining Town per ascoltare ancora un pezzo. Ok, adesso facciamo un pezzo dal primo, dall'EP, anche questo è un po' poco radiofonico, pronunciarlo non è molto, è puntato anche questo, è un anagramma anche questo. Quindi pronunciamolo così alla veneta, Anli. Despicable me, I'm paid for this woman who's left. You won't run a taking and cursing they made you. Working on my dream, you haven't run soul and heart of heart. Have a kiss and I can tell by the clean skin for you. Oh, I'm far away. Oh, I'm far away. Oh, far away. Oh, yeah. I believe you love me. You haven't played my feeling. Tired of making love with you, but screaming me without respect. Oh, screaming me. Oh, without screaming me. Oh, without screaming me. Oh, without screaming me. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Maurizio. Sì, ha fatto una concessione al batterista, Bat. Ha concesso questo piccolo flash finale. Esatto. The Mine in Town, ancora con noi fino alle 22:30 per ascoltare la loro magica musica che è proposta anche in... in tre dischi, io ce li ho davanti qua tutti e tre. Il primo, quello che sto sfogliando, è Out of Love, quello che anche stiamo ascoltando perché è anche l'ultimo lavoro. Poi ne abbiamo uno di qualche tempo fa, esattamente di quale anno? Aprile 2010, LP, sì. Fallen Rising, eccolo qua, che quindi dell'anno scorso, altrettanto carina la confezione. E poi c'è un altro album di cui vorremmo anche parlarne, che è un po' un'anteprima, sì, di Matt and the Minintown. Sì, anteprima, c'è già qualcosa sul web, ho già pubblicato un paio di video con due canzoni. È un mio EP solista con quattro brani inediti, e sempre con la collaborazione di Roberto al basso su tre brani, e di cui uno è una versione alternata di un brano che è presente anche su Out of Love, che è Breathe, ed è in versione praticamente spoglia con piano e voce e basta. Ed è qualcosa che mi sentivo di fare, una tappa che avevo sentito il momento, insomma, di fare questo disco, questa impronta, per poi in futuro, insomma, vediamo cosa porterà. Porterà un nuovo album con la band, o seppure cercherò di concludere quello che ho iniziato con questo EP, insomma. Certo. E se dovessi far ascoltare qualcosa, cosa si potrebbe scegliere in questo tuo EP? Breath è sicuramente un brano che potremmo sentire, visto che poi abbiamo un'anteprima che volevamo regalarvi. Anche per noi è un'anteprima, perché l'avete mai provato? Non l'abbiamo mai suonata, esatto. Bene. E volevamo regalarvela a voi stasera, insomma. Benissimo. Io consiglio Breath, poi qualsiasi va bene. Visto che l'abbiamo aperto, non l'abbiamo ascoltato prima, però voglio dire, visto che la musica fino adesso ci è piaciuta, è come a garanzia di tutto. Andiamo ad ascoltare allora questo pezzo che si intitola Breath, e dopo lo torniamo a commentare sempre all'interno degli studi di Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. You're inside me. this empty room without you breathe, without you breathe, little room just in heaven, just your breath, just your leave. Oh, just you leave. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Assolutamente è un'atmosfera incredibile questa di Breathe. Abbiamo ascoltato il nuovo lavoro in anteprima, ce lo confermi Matt? Sì, Matt in the Mining Town con questa Breathe, con un album, un EP che si volevamo titola... Volevo citare sempre all'interno di questo, oltre al basso di Roberto, il piano di Stefano Boranga, che ha collaborato con noi sempre a livello di traccia piano anche sull'album della band, sempre su questo brano e su July. E poi c'è sempre anche quella seconda voce del consigliato Marco Ragni. Esattamente. Posso citare una cosa, non so se sia proprio giusta, un po' decadente all'americana, anche se il decadentismo americano non esiste, però ho coniato questa definizione. È un pezzo decadente, bello, oscuro, molto scheletrico. L'atmosfera di tutto l'EP è abbastanza cupa. Cupa, esattamente. E ha una sonorità particolare. Per quello che sono riuscito a dargli. Insomma, e può darsi che sia una via che vorrai ripercorrere più tempo, più avanti con la band, chiaramente. Intanto Roberto ha partecipato, è già una cosa positiva, ha dato anche lui il suo contributo, oltre a tutti gli altri, chiaramente. Bene, poi naturalmente si parlava di atmosfera cupa. Io prima ho tirato fuori il CD Out of Love, vedevo che Mining Town è proprio scritto anche con tanto di teschi, quindi sì. Più cupo di così, voglio dire, tanti crani a definire le varie I e la O di Town. Sì, school. No, ma non è una scelta proprio precisa, è più a livello grafico, è più stata studiata a livello grafico. Vi piaceva così? Sì. Non c'entra niente i Grateful Dead qua praticamente. No, beh, chiamavo molto i teschi. I Grateful Dead per me c'entrano sempre. Ecco, perfetto. E ovunque. Perfetto. Dopo diciamo la decisione di della grafica sulla custodia del disco e anche sul disco è stata mia personale, ma preferendo determinate cose ad altre, insomma, è stata più qualcosa anche all'occhio, perché a volte anche su un disco conta anche quello, insomma, che l'occhio vuole la sua parte. Assolutamente sì. Allora, a proposito di occhio, ricordiamo che i nostri ascoltatori possono anche vedervi all'interno di direttarockwave.tk, questo è il nostro sito dove si possono seguire le webcam puntate sui protagonisti della serata. Ancora un pezzo live, Matt. Sì, allora adesso facciamo un'anteprima, un'altra anteprima. Bene. Sempre dall'EP che ti ho portato questa sera. Per noi è la prima volta live, quindi non garantiamo. Ed è Amnesia, un pezzo. Che in inglese, ho sbagliato anch'io questa volta, si dice Amnesia. Desperation now. him something? Can I help me now? I don't know trust, don't know trust, don't know trust. I'm doing wrong. I am here. Ooh, this the cabin's wrong. One and song again. Nothing there for me. I'm drawn every day in your eye. 4 days my suffer amnesia. I'm trying something. Can I help me now? Where I don't know trust, don't know trust, don't know trust. I'm doing wrong. I am here. Ooh, this picaber is wrong. One and song again. Nothing dark for me. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Maurizio, non male come anteprima. No, eh? Un pezzo molto nervoso, proprio sostenuto, con quel basso di Roberto che dava la spinta decisamente in tutti i sensi e dava un contributo fondamentale. Bella, bella esecuzione secondo me, un'anteprima assoluta, per la prima volta l'hanno provato, quindi per la prima volta l'hanno eseguita qui da noi. Siamo molto onorati, Flavio, per questo. Eh certo. Quindi amnesia per entrare in contatto con questo CD, per farselo proprio? Sempre, sempre il canale principale, sempre il sito ufficiale della band, che comunque resta la band il punto di riferimento comunque mio, primo insomma. Quindi sempre dal sito potete avere i riferimenti per richiedere anche questo EP, insomma. Benissimo, quindi tre motivi per scegliere The Man in Town con Out of Love, il disco che abbiamo presentato per la maggiore questa sera, poi ancora con Falling Rising, ancora di qualche mese fa, diciamo. Un anno abbondante. Un anno abbondante, e poi l'ultimo lavoro in versione solista di Matt con Amnesia, con questi... cinque pezzi dei quali ci siamo ascoltati prima, uno bellissimo Brief e poi adesso questo Amnesia. Sì. Sì, i tre diversi momenti musicali, il momento iniziale, il momento centrale del disco ufficiale e l'ultimo momento, cioè probabilmente con qualche input per un allargamento di certi orizzonti, Matt, oppure no, cosa dici? Sì, allora... Il gruppo dà comunque la possibilità anche a chi scrive i brani di poterli esportare live, di poterli comunque riarrangiare in una maniera particolare che magari da solo non riusciresti mai. Forse il motivo è stata forse la voglia o l'intenzione personale di magari avere un attimo di distaccamento, vedere un attimino cosa poteva nascere o uscire da un qualcosa di più personale, di più, perché comunque in un gruppo è giusto che ognuno metta la sua, certo, la sua voce, la sua opinione, quindi alla fine il risultato è bene o male un po' di tutti, perché comunque ognuno ha messo, c'era forse l'esigenza da parte mia di provare a fare un qualcosa e per poi vedere che riscontro c'era anche di più personale con le idee che magari avevo in testa in quel momento, insomma. Io Amnesia lo vedo come il più duro di tutti, secondo me. Live verrà molto molto sostenuto, molto potente. Io lo sento così, qui chiaramente in dimensione acustica o pseudo acustica, però live lo vedo molto molto forte. Il batterista cercherà di dare la sua parte. Ecco, perfetto. la strada è allargata. Roberto mi ha già guardato molto male. Sta rivendicando la sua posizione in questo momento, batterista Alberto. Visto che prima abbiamo parlato anche dell'altro CD, ovvero il primo, Fallen Rising. Sì. Ascoltiamo un pezzo anche da questo album, tanto per completare quello che è il vostro lavoro, quelli che sono stati i vostri progetti, e poi, visto che mancano pochi minuti alla fine, direi di dare ampio spazio anche al live. Quindi prendete fiato adesso, ascoltiamo un pezzo. Abbiamo scelto Double Face. Sì. E quindi lo ascoltiamo e poi torniamo, e naturalmente, carissimi ascoltatori, aspettatevi un bel finale live, The Mine in Town. Ve l'hanno già dichiarato già al principio di questa bella trasmissione. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Abbiamo ascoltato anche un pezzo dall'album Fallen Rising, questo si titola Double Face, ed è proprio vero. Permettimi di, sì. Così annunciamo tutti, perché altrimenti poi magari qualcuno si arrabbia. Sì. Avevo citato prima il bassista del primo EP, Giorgio Conte, che ha collaborato a questa canzone che abbiamo appena sentito, insomma. No, dicevo, musica a doppia faccia, perché ci sono delle ballate, delle cose, diciamo, definiamole intimiste, e poi questi spolveroni, chiamiamoli così, sì. un po' forti. Misto. Un misto. Senza perdere mai di vista il genere musicale, esatto, che sì. Vi appartiene. Benissimo, adesso visto che abbiamo poco tempo, Flavio, sì. I ragazzi hanno deciso di fare due pezzi live. Ah, uno dietro l'altro? Uno dietro l'altro. È benissimo, allora non vediamo l'ora di ascoltarli. Ok, iniziamo con Rosemary, sempre dal primo EP. Posso dire un pezzo americano fino al midollo, però con l'inventiva di Robert, di Albert e di Matt, quindi insomma decisamente molto bello, trascinante, Flavio, trascinante. Sì, trascinante, così trascinante che facciamo ascoltare subito anche l'altra canzone, visto il tempo di far mettere il barré sulla chitarra. Questa di è Matt dell'ultimo, sì, album, e anche questa riarrangiata per l'occasione perché è un brano molto rock, molto elettrico, è Hello Sunshine. Aspettiamo un batterista. Devo muovermi. Devo cambiare bacchette. Ecco, okay. Tantissime bacchette, non trovo più. Ok, esatto. Massimo. every stair, now take your time. Yes, girl. We don't wheel black leather fine West girl. Pulling through what's going here, know it's true. I was driving at a better place, I've broken down. But then I want to go, September road to home. Leaving out a kitchen's here, and I want to go. People now that underground rock and roll, working men that coming soon, this no good. We done wheel black leather fine West Coast. Every stair now take its time, yes girl. Without a word to go, September road to home. Leaving out a kitchen's here, and I want to go to today. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Il tempo è passato assolutamente in velocità, siamo stati così attenti e partecipi a tutte queste canzoni proposte da The Mining Town che insomma sono arrivate alle 22:30, non ce ne siamo neanche volati, sono volati i minuti. Sono volati i minuti, giustamente. E allora Maurizio, rapidamente, l'appuntamento per domani sera. I Versus, che è un gruppo di Padova molto interessante, Pink Floydiano, quindi stanno facendo molto bene, domani sera dalle ore 10, quindi dalle 22 alle 24 con Michele Tosoni in regia. Benissimo, allora visto che l'appuntamento poi con l'hard rock e heavy metal incombe, quindi salutiamo anche Renato Ferro e lo ringraziamo della pazienza che ha nel regalarci ancora qualche minuto di buona musica con The Mining Town. E approfittiamo noi per salutare i nostri ascoltatori e per lasciarvi in mano ai soli The Mining Town per farci ascoltare un ultimo pezzo. Quindi da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara un grande grazie ai Mining Town, grazie di essere stati con noi, di essere venuti appositamente da Rovigo. Tornate, salutateci il vostro bel Polesine, nebbia compresa. Grazie a voi. Questo è il periodo giusto, mi sembra di capire. Sì. Allora, diciamo che il peggio per la nebbia è passato. Bene. Il peggio è passato. Benissimo, allora vi salutiamo, buona serata a tutti, grazie ancora del Mining Town. Cosa ci proponete in finale di trasmissione? Allora, grazie da parte mia e tutta la band a voi per l'ospitalità. L'ultimo brano non lo annunciamo, diciamo solo che lo dedichiamo ad Alberto che è venuto questa sera. Benissimo. E il nome non lo annunciamo. Chi ci segue capirà, lo sa, il titolo della canzone lo capisce. softer than heaven, were you to come and down back to you. Do you to come and me, you'll move the body to the station. I'm a soon working now, back to you. Around here's no cold. I never did something for down. She wearing here's no cold. Back to you. Listen, I'm staring now. Where the people come and enter the world. Where you to come and down, back to you. Provi tu. No, ho paura.